La terza sera, uno dei suoi amici, al quale non avevo avuto occasione di parlare le due prime sere, conversò lungamente con me e lo sentì dire sottovoce a St. Loup quanto ne godesse. E in effetti chiacchierammo quasi tutta la sera davanti ai nostri bicchieri di Sauterne che non vuotavamo, mentre dagli altri ci separavano, ci proteggevano i magnifici veli di una di quelle simpatie fra uomini che, quando non si basano sull'attrazione fisica, sono le sole a risultare assolutamente misteriose. Della stessa enigmatica natura mi era parso a Balbec il sentimento che St. Loup provava per me, un sentimento affatto distinto dall'interesse delle nostre conversazioni, privo di ogni vincolo materiale, invisibile, impalpabile e del quale, tuttavia, egli avvertiva in sé la presenza come una sorta di flogisto, di gas, tanto da poterne parlare con un sorriso. Ma forse c'era qualcosa di ancora più sorprendente lì, in quella simpatia nata nel corso di una sola serata, come un fiore sbocciato in pochi minuti al calore di quella piccola stanza. Non potei trattenermi dal chiedere a Robert, poiché mi parlava di Balbec, se fosse davvero deciso il suo matrimonio con Mademoiselle d'Amresac. Dichiarò che non soltanto non era deciso, ma non se n'era mai parlato, lui non l'aveva mai vista e non sapeva nemmeno chi fosse. Se in quel momento avessi incontrato l'una o l'altra delle persone di mondo che avevano annunciato quel matrimonio, mi avrebbero messo a parte delle nozze di Mademoiselle d'Ambresac con un giovanotto che non era St. Loup e di St. Loup con una fanciulla che non era Mademoiselle d'Ambresac. Li avrei sbalorditi ricordandogli le loro opposte e ancora così recenti predizioni. Perché il giochetto possa continuare, moltiplicando le notizie false e accumulandone via via su ciascun nome il maggior numero possibile, la natura ha dotato questo genere di persone di una memoria tanto più corta quanto più ampia è la loro credulità. St. Loup m'aveva parlato di un altro suo collega, anche lui presente quella sera, con il quale andava particolarmente d'accordo, già che erano, in quel giro, gli unici due fautori della revisione del processo Dreyfus. «Oh, quello non è certo della stessa pasta di St. Loup, è un energumeno», mi informò il mio nuovo amico. «Non è nemmeno in buona fede. All'inizio diceva: basta aspettare, c'è un uomo che conosco bene, là dentro, un uomo pieno di finezza, di bontà, il generale de Boisdeff. Potremmo, senza esitazione, fidarci del suo parere». Ma quando è saltato fuori che Boisdeff era colpevolista, ecco che Boisdeff non valeva più niente. Il clericalismo, le prevenzioni dello Stato Maggiore gli impedivano un giudizio sereno, e notate che nessuno è, o meglio era, prima di Dreyfus, più clericale dell'amico in questione. Allora ci ha detto che la verità si sarebbe saputa comunque, perché la faccenda l'avrebbe presa in mano Saussier, e Saussier era un soldato repubblicano. Il nostro amico viene da una famiglia ultramonarchica, un uomo tutto d'un pezzo, una coscienza inflessibile. Ma quando Saussier ha proclamato che Sterasi era innocente, l'amico ha trovato per il verdetto nuove spiegazioni, sfavorevoli non a Dreyfus, ma al generale Saussier. Era lo spirito militarista ad accecare Saussier. E l'amico, notate, non è meno militarista che clericale, o almeno lo era, visto che non so più cosa pensarne. La sua famiglia è disperata di vederlo sostenere simili idee. «Il fatto è», osservai, rivolgendomi sia a St. Loup per non dargli l'impressione che volevo isolarmi e per farlo partecipare alla conversazione, sia al suo collega, «il fatto è, vedete, che ciò che si dice dell'influsso esercitato dall'ambiente è vero soprattutto per l'ambiente intellettuale. Ciascuno è l'uomo della propria idea. Ci sono molto meno idee che uomini, e così tutti gli uomini che hanno una stessa idea si assomigliano. E poiché un'idea non ha niente di materiale, gli uomini che stanno solo materialmente attorno a un uomo che ha la propria idea non possono in alcun modo influire su di essa». A questo punto fu interrotto da St. Loup, perché un giovane militare, indicandomi con un sorriso, gli aveva detto: «Duroc, tale quale Duroc». Ignoravo che cosa intendesse dire, ma percepivo che l'espressione del viso intimidito era più che benevola. Saint Loup non si accontentò di quell'accostamento. In un delirio di gioia, probabilmente accresciuta da quella che egli stesso provava facendomi brillare agli occhi dei suoi amici, mi ripeteva con estrema volubilità, carezzandomi come si carezza un cavallo che ha tagliato per primo il traguardo: «Sei l'uomo più intelligente che io conosca, sai?» Correggendosi, aggiunse: «Assieme a Elstir. Non ti dispiace, vero? Puro scrupolo, capisci? Per fare un esempio, te lo dico come si sarebbe detto a Balzac: siete il più grande romanziere del secolo assieme a Stendhal. Eccesso di scrupolo, capisci? In fondo ammirazione immensa. No? Non ti va, Stendhal?» aggiungeva con un'ingenua fiducia nel mio giudizio che traspariva dall'incantevole, sorridente, quasi infantile interrogazione dei suoi occhi verdi. «Ah, bene, vedo che la pensi come me. Bloch detesta Stendhal, mi sembra davvero stupido da parte sua. La Chartreuse è pur sempre qualcosa di enorme, no? Ah, sono contento che la pensi come me. Cosa ti piace di più nella Chartreuse? Dimmelo!» mi ingiungeva con giovanile irruenza. E la sua forza fisica, minacciosa, dava alla domanda un che di quasi terrorizzante. «Mosca, Fabrizio?» rispondevo timidamente che in Mosca c'era qualcosa del signor di Norpois, al che uragano di risate del giovane Sigfrido Saint Loup. Non facevo a tempo ad aggiungere: «Ma Mosca è più intelligente, meno pedante», che già sentivo Robert gridare «Bravo!» battendo le mani, ridendo da soffocarsi ed esclamando «È talmente così! Magnifico! Ma sei incredibile!» Quando parlavo io, l'approvazione degli altri sembrava quasi di troppo a Saint Loup. Esigeva il silenzio. E come un direttore d'orchestra che interrompe i suoi strumentisti battendo la bacchetta sul leggio se qualcuno fa rumore, egli redarguì il disturbatore intimandogli: «Gibert, dovete star zitto quando si parla. Lo direte dopo. Forza, continuate!» mi incoraggiò. Respirai, perché avevo temuto che mi facesse ricominciare da capo. «E dal momento», ripresi, «che un'idea non può partecipare degli interessi umani, né potrebbe godere dei loro vantaggi, gli uomini che hanno un'idea non sono influenzati dall'interesse». «Ah, c'è da restare a bocca aperta, ragazzi!» esclamò, finito che ebbi di parlare, Saint Loup, i cui occhi mi avevano seguito con la stessa ansiosa sollecitudine che se avessi camminato su un filo teso. «Cosa stavate dicendo, Giberg?» «Volevo dire che il signore mi ricorda molto il comandante Duroc. Mi sembrava di sentir parlare lui». «Ma sì, ci ho pensato tante volte», replicò Saint Loup. «Ci sono parecchi punti di contatto, ma lui, ve ne accorgerete, ha mille cose che Duroc non ha». Così come un certo fratello di quell'amico di Saint Loup, allievo della Scola Cantorum, a proposito di ogni nuova opera musicale, non la pensava affatto come suo padre, sua madre, i suoi cugini, i soci del suo stesso club, ma esattamente come tutti gli altri allievi della scuola, allo stesso modo quel nobile sottufficiale, di cui Bloch si fece un'opinione straordinaria quando gliene parlai, giacché, pur commosso dall'idea che fosse del suo medesimo partito, se l'immaginava tuttavia, a causa delle sue origini aristocratiche e della sua educazione religiosa e militare, infinitamente diverso, adorno del fascino posseduto dagli indigeni di qualche remota contrada, quel nobile sottufficiale aveva una mentalità, come allora si cominciava a dire, affine a quella di tutti i dreyfusisti in generale e di Bloch in particolare, una mentalità sulla quale non potevano avere la benché minima presa né le tradizioni di famiglia né gli interessi di carriera. Così, un cugino di Saint Loup aveva sposato una giovane principessa d'origine orientale cui si attribuivano versi degni di Victor Hugo o di Alfred de Vigny e che, ciò nonostante, si supponeva dovesse avere uno spirito peculiare e in qualche modo inconcepibile, lo spirito di una principessa orientale reclusa in un palazzo delle Mille e una Notte. Agli scrittori che ebbero il privilegio di incontrarla toccò la delusione, o piuttosto la gioia, d'ascoltare una conversazione che non faceva pensare per niente a Shahrazad, bensì a una persona geniale del calibro, appunto, di Alfred de Vigny o di Victor Hugo. La cosa che più mi piaceva, conversando con quel giovane, come con gli altri amici di Robert, del resto, e con lo stesso Robert, era parlare della caserma, degli ufficiali, della guarnigione, dell'esercito in generale. Grazie alla scala straordinariamente ingrandita che assumono ai nostri occhi le cose, anche piccolissime, in mezzo alle quali mangiamo, conversiamo, viviamo la nostra vita reale. Grazie alla formidabile maggiorazione che esse subiscono e che fa sì che tutto il resto, assente dal mondo, non solo non possa competere, ma scivoli al confronto nell'inconsistenza di un sogno, avevo cominciato a interessarmi dei vari personaggi della caserma, degli ufficiali che vedevo nel cortile quando andavo a trovare Saint Loup, o, se ero già sveglio, quando il reggimento sfilava sotto le mie finestre. Avrei voluto maggiori particolari sul comandante tanto ammirato da Saint Loup e sulle lezioni di storia militare che mi avrebbero mandato in visibilio anche dal punto di vista estetico. Sapevo che in Robert una certa enfasi verbale era troppo spesso un po' vuota, ma altre volte denunciava l'assimilazione di idee profonde che egli era capacissimo di captare. Disgraziatamente, in materia d'esercito, Robert si preoccupava soprattutto in quel momento dell'affare Dreyfus. Ne parlava poco perché, a quella tavolata, lui era il solo dreyfusista. Gli altri erano accanitamente contrari alla revisione, eccettuato il mio vicino di posto e il mio nuovo amico, le cui opinioni sembravano piuttosto fluttuanti. Convinto ammiratore del suo colonnello, che passava per un ufficiale brillante e che aveva bollato il fermento contro l'esercito in diversi ordini del giorno, guadagnandosi la fama di antidreyfusista, il mio vicino aveva intercettato alcune osservazioni sfuggite al suo capo, tali da far sospettare che egli nutrisse qualche dubbio sulla colpevolezza di Dreyfus e non avesse tolto a Picard la propria stima. Su quest'ultimo punto, in ogni caso, la voce di un relativo dreyfusismo del colonnello era scarsamente fondata, come tutte le voci di ignota provenienza che brulicano attorno a tutti i grandi casi. Poco dopo, infatti, quello stesso colonnello, incaricato di interrogare l'ex capo del servizio informazioni, lo trattò con una brutalità e un disprezzo senza precedenti. Comunque fosse, e sebbene non avesse osato informarsi direttamente presso il colonnello, il mio vicino aveva osato a Saint Loup la cortesia di dirgli, col tono di una signora cattolica che racconta a una signora ebrea come il suo parroco condanni i massacri di ebrei in Russia e ammiri la generosità di certi israeliti, aveva usato la cortesia di dirgli che il colonnello non era, nei confronti del dreyfusismo, o almeno di un certo dreyfusismo, quell'avversario fanatico, gretto che si era voluto dipingere. «Non mi stupisce», rispose Saint Loup, «perché è un uomo intelligente, però malgrado tutto è accecato dai pregiudizi di casta e soprattutto dal clericalismo». «Ah», continuò rivolgendosi a me il comandante Duroc, «il professore di storia militare del quale ti ho parlato, lui sì che a quanto pare è decisamente dalla nostra parte. Del resto m'avrebbe stupito il contrario, perché non è soltanto una persona di intelligenza sublime, ma è radical socialista e massone».